Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Parlate la nostra lingua, mezzo uomo. Noi siamo uomini come voi. Siamo il popolo degli alberi. Il popolo degli alberi? Credevo fosse una leggenda. Sembra di no. A quanto pare esistono. Si dice che possiate nascondervi nella vegetazione e diventare invisibili. Insegnateci come diventare invisibili. Se preferisci, ti insegnerò come cavare un occhio. Gobe, no! Metti via la lancia. Questi mezzi uomini e la piccola donna oggi non moriranno. Sono stati coraggiosi e mi hanno salvato la vita. Ti sono grato per quello che hai fatto. Sono in debito con te. Io sono Amtar, maestro della caccia. Loro sono i miei compagni, Varm e Pesh. Io sono Taktek. Avete mai visto un gnomo, una fata, un essere silvano dei boschi? Ma a me non è mai capitato, ma vengo da una terra dove queste cose accadevano molto di frequente. Andavo da ragazzo per i monti sibillini, dove ancora i pastori raccontavano che nelle notti di festa, nei paesi sperduti come Castelluccio di Norcia, scendessero le fate a ballare con i ragazzi del posto. Erano donne bellissime, ma ci si accorgeva che fossero fate o esseri strani dal fatto che sotto le lunghe vesti avevano zoccoletti di capra. E c'erano questi zoccoletti, mi ricordo, mi impressionava molto l'idea. Poi una volta un amico mio, sempre da quelle parti, sul monte Subasio, mi disse che il figlio aveva visto degli gnomi, giurava che aveva visto degli gnomi. Poi non avevo nessuna difficoltà a crederlo. Poi ieri, ne avrei parlato ieri, ma c'è stata, ahimè, la tragica vicenda della sparatoria a Milano, non ho potuto parlarne, quindi riporto l'argomento oggi. Leggo sull'agenzia ADN Kronos della scoperta di un dossier presso la Guardia Forestale, una cartellina verde del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, diciamo sotto la tutela del Corpo Forestale dello Stato, che contiene qualcosa che assomiglia agli X-File di cui si è tanto parlato, che contenevano gli avvistamenti di extraterrestri. Questa cartellina conterrebbe, non ho prova altra documentale che il lancio dell'agenzia di ADN Kronos, ho chiamato l'ufficio stampa della Guardia Forestale, ma hanno rimpallato un po' di persone e poi alla fine non sono fatti più vivi. Questa cartellina, da 15 anni i solerti agenti della Guardia Forestale raccoglierebbero tutte le segnalazioni di gnomi e di fate che vengono fatte in Italia. E pare che siano molte, soprattutto nell'Appennino centrale, tosco-emiliano, diciamo, in cui sembra che più frequentemente le persone segnalano presenze singolari. Come naturalmente deve fare un funzionario pubblico a fronte di ogni segnalazione, ogni volta viene fatta una scheda, se ci sono foto vengono allegate delle foto e quindi c'è un dossier sugli avvistamenti di nani, di gnomi, di fate e di elfi, di esseri naturalmente appartenenti al mondo leggendario che persone giurano di avere visto. Pare ci siano addirittura delle foto di un essere con delle orecchie allungate in cui l'agente della forestale ha scritto accanto elfo. Ora, questo potrebbe far sorridere, potrebbe essere un pesce d'aprile in ritardo, potrebbe essere semplicemente un lancio di agenzia per far parlare un po' i giornali. Infatti in rete lo hanno ripreso tutti, probabilmente molti avranno fatto lo stesso iter che ho fatto io, chiamare la Guardia Forestale, che poi alla fine non sa bene cosa rispondere, non sa bene quale sia la fonte. Ma io trovo molto probabile che in realtà possa esistere questo dossier. Nulla di sconvolgente, questo non attesta nulla, non certifica la concretezza di nessun aspetto leggendario, però dà l'idea del fatto che esista diffuso e condiviso la sensazione che i boschi e le foreste siano abitati, ancora abitati, siano sempre abitati da questi simpatici esseri che noi siamo abituati a conoscere nei nostri racconti fanciulleschi, ultimamente, negli ultimi 10 anni, da un filone di fiction cinematografica che li ha riportati in auge, a cominciare da Harry Potter, a tutte le saghe del Signore degli Anelli, a tutti i film di genere fantasy, in cui il folletto, lo gnomo, l'elfo ritornano concretamente a essere rappresentati in maniera anche molto realistica da attori. Noi avevamo soltanto le favole e le illustrazioni delle favole, avevamo pochi elementi iconografici per essere contaminati contaminati da questo immaginare. Beh, la domanda che faccio oggi ai miei ascoltatori è: trovate folle incontrare fate e folletti nei nostri boschi? Vi è mai capitato? Vi avete mai avuto la sensazione di qualcuno che vi guardasse, di un sgusciare veloce fra le fronde, di passi sui tappeti di foglie marcite, di piccoli fruscii all'ombra delle querce, camminare lungo il muschio per non farsi sentire, occhi che vi guardano? Insomma, dietro la leggenda può esserci qualche concretezza. 800 24 0024. Io, per avere un supporto in qualche maniera coerente a quello che sto dicendo, ho chiamato un esperto in questa materia. Marco Massignan, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Marco Massignan è uno scrittore, fa il formatore, è autore di un libro, Il piccolo popolo, Elfi, gnomi, folletti, creature fatate, Xenia Edizioni. Quindi lei ha raccolto quello che, diciamo, circola nell'immaginario generale. Lei trova così singolare, così strano, e ci trova degli elementi particolarmente sorprendenti sul fatto che la Guardia Forestale possa avere un dossier con gli avvistamenti di gnomi e fate? Ma diciamo che è inusuale che un corpo dello Stato, un'istituzione, diciamo, si occupi anche soltanto marginalmente della cosa, poiché viviamo comunque in un mondo che in questa epoca in cui riteniamo reale soltanto ciò che possiamo toccare e vedere con gli occhi. Però scusi, mi consenta, metta per ipotesi, le dico, non ho avuto conferme, quindi non posso dire nulla, che fossero così frequenti questo tipo di avvistamento, a un certo punto hanno detto, beh, visto che tanti ce li avvistano, facciamo un dossier. No, ma io non sto dicendo che non... No, le spiego, lo sa, perché per gli avvistamenti di, diciamo, cosiddetti UFO extraterrestri, esistono i dossier presso l'aeronautica, tante persone li segnalano, comunque li classificano, poi non è che dico ci crediamo, lo classificano. Che loro abbiano classificato comunque una serie di, diciamo, di richieste che hanno una loro omogeneità, può starci tutto. Alla fine ha detto, beh, mettiamoli tutti assieme. No, infatti, io stavo dicendo appunto che è abbastanza inusuale, non si sente, però c'è la maggior parte, oppure una gran fetta della popolazione comunque in queste cose innanzitutto ci crede, e d'altra parte, se le persone riportano che facendo un giro nei boschi hanno sensazione di queste presenze, addirittura alcuni li vedono perché comunque ne entrano in contatto in qualche modo, e questo fa parte comunque di una tradizione molto più antica che risale indietro nei secoli. Fermiamoci un secondo, voglio dar subito voce agli ascoltatori, visto che già mi stanno scrivendo in parecchi sms sulle nonne, le zie che le vedono. Poi c'è un testimonial di primo piano, di prima mano. Mauro, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. No, niente, io mi trovavo presso Francoforte, una settantina di chilometri a sud, sull'autostrada, e dovevo fermarmi, ero stanco, ero con altri due colleghi. Ci siamo fermati nella prima albergo, ho definito albergo, insomma, sì, l'albergo che abbiamo trovato, dove tra l'altro la receptionist era una punk di quelle proprio. Niente, si va fuori a mangiare, tra l'altro siamo andati a mangiare una pizzeria italiana, quindi non è che abbiamo mangiato. Come ogni italiano che quando va all'estero va a cercare la pizzeria italiana, certo. Ma sì, infatti, poi là è pieno di paesani, quindi era anche buona la pizza. Mm. Vabbè, niente, torniamo a dormire. Vabbè, io sono religioso, gli altri due invece sono due atei convinti, anche uno molto libertino. Vabbè, anche anche religioso libertino ci può stare. Lui proprio è libertino vero. Vabbè, vada al punto. Va nella sua camera. Io a un certo punto di notte mi vedo entrare dalla porta finestra, perché avevo il balcone, un gremlins, quelli piccolini, tozzi, colore grigio, mi è sembrato. Poi io ho detto, Madonna, ma cos'è? E ho fatto il segno della croce, lui mi stava come venendo incontro, e questo... Come il segno della croce, che pensava un demone, per questo dice, cioè, a me non va via. Ma che no, il demone no, che cazzo, perché insomma, un po' avendo letto sui non avendo mondi, altro, sì, l'oro del Reno, così ho detto, boh, può darsi. Ho sempre un po' avuto. I gremlins, però, scusi, non sbaglio, sono creature di un filone di film fantastico, sono esseri extraterrestri che no, si riproducono. Ma nella tradizione nordica di tutti questi. Sono folletti cattivi, ecco, folletti cattivi. Ma insomma, non è che mi sono. Comunque, vabbè, non sono i sette nani. E niente, la mattina mi alzo e vedo i miei due colleghi che avevano già fatto colazione, così. Che strano, perché di solito tiravano, oh ragazzi, io ho dormito malissimo, anche noi, guarda, non siamo riusciti a dormire, uno si era fatto la doccia, dopo l'acqua non funzionava, un altro tutta la notte, Allora ho detto la punk bestia lì, ma scusi, ma qua ci sono gli gnomi, i gremlins, ma se l'hai visto? Ho detto sì, io l'ho visto, anche io l'ho visto una volta. E fa, ogni tanto qualcuno lo vede. Fermo là, lei ha visto un gremlins in Germania, Viviana. Poi sentiamo la sua. Cosa le ha visto lei? Buongiorno, a me io mi sono sentita osservata durante una tappa del cammino di Santiago di Compostela nel 2005, perché io questo cammino l'ho fatto ben 4 volte. In mezzo alle pinete della Galizia? In mezzo, assolutamente no, verso il monastero di Samos, adesso non mi ricordo bene a quale cittadina più vicina eravamo, di modo questo monastero sperduto nei boschi, niente, camminavamo io e mio marito, c'erano dei piccoli ponticelli e non so, a me pareva proprio di vedere queste fate buone, che in Spagna le chiamano las brujas. Las brujas sono le streghe, in effetti. Comunque va bene. Ma sono quelle buone, però sono las brujas, sono quelle lei buone. Lei ha visto le fate nel cammino di Santiago. Tony, buongiorno. Buongiorno, finalmente ho il piacere di parlare con lei, che considero un giornalista straordinariamente intelligente. Sì, oggi infatti parliamo di fate e gnomi, proprio un argomento di quelli che ci sono fonti certe. Poi dica la sua visione, poi sentiamo allora, l'esperto. Mi trovavo in un luogo solitario, stavo... mi ero messo a letto e era tutto spento, tutto buio e ho avuto l'impressione di essere in pericolo, gravissimo pericolo. Ho percepito davanti a me un essere alto 2 metri, 2 metri e mezzo, ma di forma rettangolare, nero, come più nero del nero, no? Ma un gigante era? No, non lo so, era... Noi siamo abituati a vedere persone con le braccia, con le gambe, un occhio. Quest'essere era rettangolare, altissimo, ma più nero del nero della notte. Ma c'aveva gli occhi, la bocca, il naso? No, percepivo che voleva, non so, mi voleva far del male, mi voleva uccidere. Ma c'aveva cioè cos'era, come fosse una tavola nera o c'aveva delle fattezze umane? Come una tavola nera, una cosa orribile. Ha visto la tavola nera, Tony? Allora, mi fermo solo un istante, do le informazioni del traffico, poi Marco Massignan, che è un esperto che ha studiato questa materia, mi darà una sua lettura di queste visioni arrivate a tempo reale, senza che avessi preordinato nulla, nel giro di 5 minuti. Melog, cronache meridiane. Mi stanno insultando dicendo hai bevuto, toglietegli il fiasco, sono uscito di melone. Semplicemente ho riportato un'agenzia di stampa dell'agenzia DN Cronos che riporta che presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale, esiste una cartellina verde che contiene degli X-file degli ultimi 15 anni di avvistamenti, di gnomi, di fate, di esseri boschivi nei boschi italiani. Ho lanciato ai nostri ascoltatori, campione rappresentativo dell'Italia, questa domanda, ne avete mai visti? Mi hanno risposto in 10 minuti 4 persone a cui ho dato parola, ma ci sono tantissime altre, che comunque raccontano delle loro visioni. Ho al telefono Marco Massignan, che è uno scrittore, un formatore, l'autore di un libro, Il piccolo popolo, elfi, gnomi, folletti, creature fatate, Xenia Edizioni, a cui vorrei un veloce commento circostanziato del tipo di visione che hanno raccontato i nostri ascoltatori. Dunque, innanzitutto vorrei precisare che il popolo fatato, il piccolo popolo, gli elfi eccetera, anche se con nomi diversi, sono un fenomeno mondiale, non è soltanto un fenomeno europeo. Per cui, per esempio, i nativi americani del Canada li vedono vestiti da piccoli indianini, piuttosto che gli aborigeni australiani vedono i piccoli aborigeni australiani. No, certo, si adattano diciamo al costume, all'immaginario. Esattamente, certo. proprio perché se guardiamo da un punto di vista più esoterico la cosa, diciamo sono delle realtà di altri mondi, altre frequenze, altre... Sì, ma il nostro folletto, il classico folletto di noi bambini, è un'area abbastanza estesa, perché più o meno anche il folletto nordico, il troll, somiglia. Diciamo lo troviamo nella cultura celtica, scozzese, irlandese, bretone, lo troviamo in Nord Europa, però elfi è più un nome diciamo della cultura germanica, quindi Scandinavia e al massimo Germania. Mentre invece le fate viene da una tradizione romana, comunque sono presenti in tutto l'arco alpino, in quasi tutta Europa. Io ho ricordato quelle di Castelluccio di Norcia, della zona della Sibilla, la mia terra, e lì erano quelle fate, lì c'erano. Quindi in questo si intrecciano, ci sono tante origini, ci sono dei folletti piuttosto che delle altre creature fatate che sono apparentemente il parto della psiche umana, dell'immaginazione umana, altre invece sono delle realtà che appartengono ad altre dimensioni che entrano in contatto con la nostra. Cosiddetti talvolta esseri elementari, diciamo, i gnomi. Esatto, gnomi è più una dicitura, diciamo, rinascimentale, che si fa risalire all'alchimia di Paracelso. Senta, è più corretto, ad esempio, definirli nani, anche se sono due categorie diverse. I nani invece sono proprio delle figure mitologiche della mitologia nordica scandinava. Con i sette nani di Biancaneve, che in fondo è ripresa da radici molto più profonde, capito? Quello è una leggenda che viene dalla foresta nera della Germania meridionale. Senta, invece, sulle visioni del nostro ascoltatore, vorrei un suo commento. Dal Gremlins, a cominciare poi dalla signora che ha visto le fate lungo la foresta nordica. È stato a mio modo di vedere impropriamente definito Gremlin, è più probabilmente da trattarsi di uno spirito o di una presenza di quella casa, sentendo un po' quello che ha detto l'ascoltatore. Una specie di poltergeist. Potremmo definirlo più propriamente un coboldo. È una definizione germanica, proprio dato che si trovava in Germania, e sono quei spiriti delle case che sono legati a una famiglia oppure a un luogo. Invece la visione delle fate lungo la foresta del nord della Spagna. Le fate sono, come ho ascoltato bene quello che ha detto la gentile ascoltatrice, le fate sono degli esseri femminili, ovviamente, e sono collegati solitamente a delle fonti d'acqua, quindi sorgenti, laghi, fiumi, ma anche a boschi o rocce. Ad esempio, nella zona in cui vivo io, il Lago d'Orta, in provincia di Novara, ci sono moltissime leggende relative alle fate che ancora poche decine di anni fa si dice uscissero dal lago per rapire gli uomini, e una volta che si seguiva quel richiamo non si sarebbe mai più tornati. È un po' come le sirene. Invece il signore ha visto il rettangolo nero, quello è un suo incubo non classificabile. Ma è molto difficile dirlo così su due piedi, bisognerebbe verificarlo lavorandoci appropriatamente. Può essere un suo incubo, può essere una sua proiezione, può essere invece anche qualche cosa che fa parte dell'inconscio collettivo, dipende dalla persona. Cioè, quando si sogna qualcosa di nero e minaccioso, uno deve anche guardarsi. Oppure può essere anche una presenza minacciosa, perché non tutto quello che c'è nelle altre dimensioni è buono, anzi. Il fatto di vedere le fate, gli gnomi, che sono sempre buoni, è una proiezione che viene proprio dal fatto che sono stati rinchiusi in camera dei bambini. Come la minaccia di un buco nero su di noi. Davide, buongiorno. Davide. Buongiorno Nicoletti. Che ha visto? Mi sente? Sì, certo, che ha visto lei? Io, è una storia che risale a una quindicina d'anni fa. Sopra Verbania c'è una valle che si chiama Val Grande, che ai tempi era ancora parecchio selvaggia, poco battuta. Con tre amici mi ricordo che fummo convinti di vedere un Bigfoot e andammo È quella specie di essere, una specie di scimmione con i grossi piedi. Più che altro noi vedemmo queste grosse impronte di piedi. L'hanno avvistato anche a Villada, qui a Roma, una volta, hanno detto c'era il Bigfoot a Villada, che è un bel bosco. Però poi cosa è successo? Che noi andammo a fare la segnalazione alla Guardia Forestale, questa cosa andò avanti per un po' di mesi, poi si scoprì che questo Bigfoot in realtà era una persona che, dopo una delusione d'amore, lui faceva, se non sbaglio, un lavoro a Gallarate, era autista di pullman, che dopo una delusione d'amore andò in Val Grande e si abituò, cioè nel senso andò a vivere... Sin selvatichi, divenne un uomo selvatico. Esatto. Quindi niente, poi alla fine in realtà quello che abbiamo visto era qualcosa che poi ha avuto una spiegazione. Però per un po' c'è stata questa cosa, questo mito nella Val Grande, e molti andavano proprio per vedere questo Bigfoot. Quindi esistono anche i falsi positivi in questo tipo di avvistamento. Il Bigfoot della Val Grande era un povero autista di Gallarate che, preso da una delusione d'amore, ha cominciato a vagare per la foresta, inselvatichendosi sempre di più, puzzando sempre di più, e quindi è stato preso per un Bigfoot. Mi dispiace che molti telefoni dandomi dell'alcolizzato, del pazzo, del folle, ma date un attimo licenza a una persona di parlare di qualcosa che non è verificabile, visto che non mi è mai successo veramente volte mi succede che alla immediata chiama di un argomento, di un punto di vista, tante persone diano un riscontro così immediato. Evidentemente c'è una gran voglia, mettiamola così, di vedere fate, gnomi e folletti. Quindi, come Gaetano, molti ne hanno viste. Gaetano, cosa ha visto lei? Spenga la radio. Sì, buongiorno. Allora, io sono fatto risalire circa 8-9 anni fa. Sono a casa mia, nella mia camera da letto, che dormo, sai, in Sicilia, a Paternò, provincia di Catania. Fa molto caldo, per cui stavo dormendo. Era la controra, sarà messo in pigiama col ventilatore? No, nudo, completamente nudo, senza ventilatore, che a me non piace. Completamente nudo, totalmente. No, poi il slip, con le mutande. I particolari sono importanti. Allora, a un certo punto mi sento... Cambia molto vedere un gnomo... No, questo non è un con la spada di fuori, con la spada dentro, cambia molto. No. Questo era un gnomo, era una... cioè, sta figura molto alta, che mi ha toccato con un dito la gamba destra, e io sono saltato per aria, perché... Ma cos'è, un uomo o una donna? Un uomo o una donna era? Mi è sembrato un uomo, sinceramente, questo non glielo so dire, mi è sembrato un uomo. Che l'ha messo la mano sulla gamba? No, un dito. Un dito. E sembrava un dito. Ho sentito freddo e mi sono svegliato di soprassalto, no? Che caspita, che cos'è? Che era? E niente, questa persona qui, quel tipo che era, non so cos'era, è scappata via dalla paura. Ma magari era il sagrestano, il padre, dove stava lei in questo nome? Casa sua? A casa mia, nella mia camera da letto, che riposavo. Questo mi sembra ancora più... Risentiamo ancora Marco Massignan. Vedi, ci stiamo spostando. Lei non trova però, forse lei non si sorprenderà, che una cosa che apparentemente mi stanno dando del folle, così priva di razionalità, in realtà immediatamente scopra un non detto così profondo e così vasto? Ha proprio detto bene, un non detto, ma in realtà quelli che le stanno dando del folle, a mio avviso, sono persone molto tristi, nel senso che sono persone che hanno un grande dolore dentro e non possono ammettere. Ma io sono contento di essere chiamato folle, onestamente. Meno male, mi onora. Molto meglio essere folli che normali. Ma sì, assolutamente. La normalità è una delle peggiori malattie che possa prendere una persona. Quindi per lei non è una novità. Aspetti un attimo, Alessandro, questo è importante. Alessandro. Pronto, sì, sono in linea. Sì, veloce, abbiamo poco tempo. Sono un oculista, ho tre pazienti anziani, diciamo sui 70 anni così, che hanno ricorrenti visioni di appunto gnomi e fate, e sono affetti da sindrome di Bonnet, cioè sono persone con un discreto calo del visus che ricostruiscono nella loro mente, nella loro retina, appunto, queste immagini. E mi spiega lei come medico esattamente la sindrome di Bonnet, ma perché proprio gli gnomi non ricostruiscono, che ne so, un albero da frutta, un animale da cortile? Altre, no, innanzitutto ricostruiscono sempre immagini antropomorfe, nel senso che... Però piccole. Visi piccoli, sì. Però diciamo che fra le 7-8 persone che hanno questa sindrome, e che peraltro si vergognano sempre di dirlo a parenti e amici, lo dicono soprattutto al medico, solo tre, ecco, ricorrono nel loro giardino queste fate, esseri benigni, diciamo, che li accompagnano nella loro quindi vita. Ci dice il dottore, caro Marco Massignan, che saluto e rinvio una prossima trasmissione visto che mi interessa quello che dice, che in realtà esiste una maligna sindrome della retina che fa sì che gli uomini a una certa età, con la botta di ricoglionimento, vedano anche fate e elfi molto meglio quelli che vedere cose brutte. Alla prossima.